Buonasera a tutti gli ascoltatori di Radio Città Fujiko, siamo sempre noi di 451 Intersezione, ore 20 fino alle 21, vi accompagneremo in una sorta di viaggio abbastanza straniante questa sera. 451 Intersezioni, ricordiamo per coloro che si fossero messi in ascolto solo per la prima volta casualmente su queste frequenze stasera, oppure hanno evitato questo spazio radiofonico per evitare smottamenti sensoriali e percettivi, che 451 Intersezioni fa parte, diciamo, di un network, di un progetto collettivo che abbraccia anche la trasmissione 451 Frammenti Sonori, che invece va in onda il mercoledì notte da mezzanotte alle 2 di notte, condotto usualmente da Max Macchia, ma spesso alle volte, direi più che spesso, ci alterniamo sia per questo spazio di stasera che quello del mercoledì, anche se negli ultimi mesi l'abbiamo fatto solo raramente. Un saluto ovviamente da Elisio Scarpa, che condurrà questa trasmissione di stasera. Vi ricordo anche, per coloro che fossero interessati ad avere ulteriori informazioni sul nostro progetto radiofonico, che c'è un blog, no blog, 451frammentisonori.noblogs.org, dove troverete tutte le puntate passate, future, presenti, sia di 451 Intersezioni che 451 Frammenti Sonori. Ricordando soprattutto che il nostro è un progetto radiofonico collettivo che porta avanti un discorso legato alla sperimentazione, alla ricerca sonora, alle musiche d'avanguardia, spaziando a 360 gradi in qualsiasi genere possibile e immaginabile, o quasi, non proprio tutto, perché il mainstream lo evitiamo, come evitiamo anche certi generi che noi definiamo un po' pacchiani e che non, ovviamente non elenchiamo per non farci arrivare degli strali e delle offese in diretta da parte di qualche ascoltatore appassionato di quei generi. Bando alle ciance, entriamo subito sulla puntata di stasera, che è intitolata Percezioni Stranianti, dunque l'arte dello smarrimento sensoriale. E che cosa si tratta? Tracceremo un percorso di vari autori, di vari progetti musicali, anche molto differenti fra loro, ma accomunati da un'idea, da un'intenzione da parte sia dell'artista o degli artisti o dei progetti di portare avanti una sorta appunto di straniamento da parte dell'ascoltatore, sia anche nei confronti dello stesso ascoltatore, che può percepire queste musiche, queste frequenze sonore, come qualcosa assolutamente disorientante e appunto straniante. Il termine straniamento poi si avvicina anche molto a una sensazione collegata, che è quella dell'alienazione, ma in questo caso non è un'alienazione passiva da parte dell'ascoltatore e anche da parte di colui che vuole creare questo effetto percettivo, da colui che riceve le frequenze sonore, ma è un'alienazione che si può anche definire consapevole, anche se può sembrare una contraddizione in termini. Dunque qualcosa che sia l'ascoltatore che il trasmissore del trasmittente musicale di cui parleremo stasera vuole praticamente creare una sorta di alienazione controllata, pilotata, consapevole, verso e fuori soprattutto dalla realtà circostante, quotidiana, usuale, che, a cui siamo abituati sia nella vita quotidiana ma anche negli ascolti, nell'ascolto, nell'apparato percettivo uditivo, che ha una sorta anche di abitudine a farsi praticamente attraversare da suoni, da composizioni e da frequenze anche tutto sommato rassicuranti e accoglienti. Ecco, stasera non sarà così. Anche brani che possono sembrare abbastanza dolci e avvolgenti in realtà tengono sotto delle frequenze, delle strutture che sicuramente disorientano e creano appunto questo effetto straniante. E partendo subito con i progetti che stasera porteremo in lista nel carnet del ristorante 451 Intersezioni, partiamo con un giapponese. Non potevano mancare i folli, assurdi e provocatori giapponesi. Parliamo di un grande chitarrista nonché sperimentatore sulla scena musicale ormai direi da quasi 40 anni, e cioè Otomo Yoshide, musicista che attraversa tutta la sperimentazione a 360 gradi fin dagli inizi, partendo fondamentalmente da un pianeta più legato al free jazz per poi avvicinarsi sempre di più all'improvvisazione radicale e abbracciando anche l'elettronica più ardita e noise. E siamo andati a pescare da questo autore giapponese che spesso ha attraversato nel passato 451 sia frammenti sonori, Intersezioni relativamente, perché il programma è partito da questo ottobre scorso, dunque è piuttosto recente, ma comunque un autore amato da noi di 451 e che ha attraversato in questi 15 anni di trasmissioni radiofoniche spesso questo programma in radio. E abbiamo appunto estrapolato un disco uscito nel 2000, Cathode, dove appunto si intersecano atmosfere sonore estremamente suggestive ma soprattutto stranianti, dove una chitarra acustica viene tracciata con una linea che può sembrare anche abbastanza dolce seppur ipnotica, con invece delle frequenze che lavorano sotto e che sono assolutamente urticanti e appunto creano un effetto straniamento assolutamente unico. Otomo Yoshide spesso lavora su queste contraddizioni sonore, una chitarra acustica oltretutto anche amplificata usualmente abbastanza in maniera diciamo standard, con queste frequenze, con queste frequenze elettroniche, con questi suoni elettronici che sono assolutamente spannanti. Ce lo andiamo a sentire dunque da Cathode 2000, il lavoro splendido di Otomo Yoshide. Ovviamente, come dico al solito, buon ascolto. Thank you. E siamo rientrati in diretta dopo questo vero e proprio, cosa si potrebbe dire, un'esplosione di frequenze urticanti, lancinanti e appunto stranianti, che apre il nostro percorso di stasera su percezioni stranianti, l'arte dello straniamento sensoriale. E dal grande, grandissimo Tomo Yoshide, giapponese folle come gran parte dei suoi amici e compagni di viaggio, che ritroveremo diverse volte anche in futuro su 451 Intersezione, dall'album Yoshide lancia invece, scusate, ma è uscito fuori un piccolo rospo a causa ovviamente l'essere tabagista. E dopo appunto Tomo Yoshide andiamo dal Giappone agli Stati Uniti d'America, entriamo nell'universo di un altro autore, sperimentatore nonché chitarrista folle, Alan Licht, che anche lui è un autore molto amato da noi di 451. In passato abbiamo inserito degli album soprattutto legati alle manipolazioni e ai loop che lo stesso Alan Licht ama fare, soprattutto su delle atmosfere minimaliste e anche legate a una certa disco che poi lui manipola e rende praticamente ipnotica con dei flussi sonori estremamente suggestivi e ammaglianti. Ma in realtà c'è anche un altro settore che Alan Licht cura in maniera specifica, cioè proprio l'aspetto chitarristico, il suo strumento base, chitarra elettrica nonché acustica, che ama poi costruire con delle vere e proprie composizioni orchestrali. Può sembrare un po' assurdo e ardito utilizzare il termine orchestrale lavorando su un'unica chitarra, ma con gli effetti e con l'uso assolutamente anomalo che lo stesso Alan Licht fa dello strumento, crea appunto delle vere e proprie ondate sonore massimaliste e orchestrali che rendono il suo suono e le sue composizioni assolutamente uniche. In particolar modo abbiamo selezionato l'ultimo album uscito per l'etichetta Mego, Four Years Older, uscito alla fine del 2013, dove Alan Licht lavora esclusivamente sulla sua chitarra elettrica, creando appunto queste atmosfere assolutamente ipnotiche con una fortissima energia sonora che crea comunque una dimensione di straniamento sensoriale, anche perché se vi tuffate dentro questa vera e propria ondata, questo maremoto sonoro, sicuramente l'effetto è disorientante e in alcuni momenti anche alienante, perché se non vi fate colpire da questo flusso sonoro estremamente forte, entrando dentro nei meandri delle piccole variazioni che lo stesso Licht utilizza all'interno della composizione, entrerete in un mondo assolutamente unico, che è quello appunto di questo folle musicista newyorkese. Andiamocela a sentire per attraversare ancora dei meandri dello straniamento di percezione, dunque dello smarrimento sensoriale. Buon ascolto con Alan Licht. E siamo ritornati in diretta, ho lasciato qualche secondo soprattutto per far riprendere gli ascoltatori da questo flusso assolutamente estraniante, oltre che straniante. Abbiamo fatto un mix tra Alal Licht da Four Years Older, questo vero e proprio magma sonoro creato dalla sua chitarra elettrica che va oltre allo strumento, un percorso assolutamente ipnotico e devastante a livello di energia sonora, con un vero e proprio salto quasi nel buio, dentro un'atmosfera quasi casuale, informale al massimo, dove si sentono addirittura gli scricchioli di qualche sedia, un sacco che fa, sembra fare delle prove, e una linea compositiva assolutamente improbabile, qualcosa di fuori ogni tipo di concezione compositiva, e lì siamo proprio dentro il piano dello straniamento, dello smarrimento, dell'informalità portata all'estremo. In questo senso anche fa pensare come questo tipo di ascolto, che può sembrare quasi non musica, no? Alle orecchie di gran parte degli ascoltatori medi abituati attraverso strumenti ovviamente come la televisione o anche adesso il computer, ma soprattutto la radio, sono attraversati, abituati a farsi attraversare da strutture ben costruite, ben confezionate, ben patinate, con suoni e strutture abbastanza riconoscibili. Bene, questa informalità riportata al massimo livello, quasi fossero questi musicisti in una cantina e avessero registrato, con rumori di sottofondo, scricchioli, sax registrati lontani e male, e una linea che non si riesce neanche bene a percepire tra basso, chitarra o qualche strumento che non si riesce quasi a riconoscere, si va dentro proprio pienamente l'idea dell'allontanamento e dunque di un'alienazione quasi consapevole, pilotata, per distruggere dei parametri tipici della nostra percezione sensoriale dei suoni, che in realtà fanno parte sempre di un meccanismo di controllo, un ingranaggio che fa parte della nostra vita quotidiana. I nostri sensi, dunque gli occhi, ma anche l'udito e tutti gli altri che spesso non utilizziamo, vengono assemblati, abituati a ricevere determinate informazioni codificate. Bene, queste musiche sbaragliano completamente questa idea, e la sfida è proprio entrare dentro questo tipo di linguaggio, perché io lo dico sempre a coloro che rimangono un po' basiti e stupiti e quasi alle volte disgustati da certe musiche che noi di 451 proponiamo anche in maniera estremamente dirompente, quasi fastidiosa. Il discorso è proprio qui, abituarsi a entrare dentro questi linguaggi, e anche noi ci siamo arrivati dopo un percorso anche abbastanza impegnativo a lungo, e vi assicuro che poi le musiche cosiddette mainstream, quelle propinate dalla macchina industriale, discografica, musicale o digitale, attualmente poi molto sviluppata attraverso podcast o scaricamenti vari di singole tracce o album, vi assicuro che tutti gli album che vengono propagandati come dischi dell'anno, più venduti, più conosciuti, con le star ovviamente premiate nei vari premi costruiti in tutto il mondo ogni anno, vi assicuro che poi vengono assolutamente ridimensionate, si rivede completamente il meccanismo della percezione uditiva e sonora. E abbiamo ascoltato, non l'ho detto ancora, dopo Alal Licht, un progetto della scena americana che esce dal Noise anni zero, con formazioni fondamentali come Wolf Eyes. Infatti questi sono due elementi tra i fondatori e componenti di Wolf Eyes, cioè John Olson e Nate Young, nel progetto Star Case. L'album in questione che abbiamo ascoltato, questi 4 minuti circa, sono tratti da Stair Problem, uscito per l'American Tapes nel 2010. E rimanendo nella scena noise americana, andiamo a pescare un altro elemento che in realtà ha fatto uscire diversi album solisti, ma ha fatto parte anche egli di Wolf Eyes e di tantissimi altri gruppi importanti della scena noise americana degli anni zero, e cioè Aaron Dilloway. E ascolteremo un altro modo, un altro aspetto dello straniamento percettivo, con una traccia tratta da Modern Yester del 2012. Oltretutto vi invito a cercare la copertina su internet perché è veramente splendida e si vede un uomo praticamente ben vestito, perfetto, quasi un uomo che può ricordare un businessman della City o di New York, di qualche borsa possibile e improbabile, con una faccia assolutamente mostruosa che rappresenta anche molto, ricorda molto certe iconografie tipiche della musica industriale, in qua la musica industriale ha dei rimandi molto forti sia dal disco che abbiamo appena ascoltato di Starcase, ma anche nel lavoro di Aaron Dilloway, ve lo ricordo ancora, Modern Yester del 2012. Ce l'andiamo a sentire anche qua, una bella staffilata ipnotica a livello frequenziale che fa rientrare dentro un discorso più noise, ma c'è qualcosa di astratto, di concettuale appunto, che si ritrova perfettamente nella puntata stasera sull'arte dello smarrimento dei sensi. Andiamoci ad ascoltare Aaron Dilloway, Modern Yester. E siamo rientrati in diretta dopo questa vera e propria onda anomala sonora di Aaron Dilloway. Chissà quanti saranno rimasti appiccicati alla radio dopo questa vera e propria tramvata sonora. Aaron Dilloway d'altronde fa parte della scena noise americana degli anni zero, una figura importantissima ma sicuramente molto molto devastante e orticante nelle sue composizioni. E l'effetto straniante, lo smarrimento, la devastazione anche sonora, l'effetto confusione che creano queste composizioni, ci spostiamo da un noise deflagrante a un noise informale e molto più concettuale e astratto, sempre di un autore che fa parte della scena noise anni zero americana, componente anche egli di Wolf Eyes e di altri progetti importanti e seminali degli anni zero, Nate Young. L'ultimo lavoro uscito per la NNA Tapes alla fine del 2013, Blending Confusion, splendido lavoro, ve lo consiglio vivamente, con fortissimi rimandi e tributi alla scena industriale anni 80, con un album assolutamente geniale, costruito su piani estremamente complessi, e ve lo consiglio ancora nuovamente perché merita l'intero album. Ce l'andiamo a sentire per chiudere questa puntata stasera di Percezioni Stranianti, e l'arte dello smarrimento viene rappresentata perfettamente da Nate Young. Io vi aspetto lunedì prossimo sempre dalle 20 alle 21, vi auguro un buon proseguimento degli ascolti su Radio Città Fujiko e ovviamente una buona serata da Elisio Scarpa. Nate Young da Blending Confusion, ciao.